Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 672, una puntata molto ricca, molto varia, interessante, stimolante per le diversità espressive, che ci offrirà anche la varietà sia sul piano strumentale che sul piano vocale. Iniziamo subito con un artista che si presenta per la prima volta in Anima Jazz. Si tratta di Benny Sciaroni al sax, che ha realizzato un CD intitolato Slant Signature, dal quale noi potremo ascoltare una composizione originale che porta proprio il nome del CD, Slant Signature. Insieme a Benny Sciaroni al sax abbiamo Joe Barbato al piano, Todd Baker al basso e poi abbiamo Steve Langone alla batteria. C'è anche in questo progetto discografico uno special guest che è il trombettista Jim Rotondi e il chitarrista Mike Mele. Come avete sentito, si tratta di quasi tutti italoamericani. Buon ascolto quindi con Benny Sciaroni dal CD Slant Signature. Thank you. Veramente niente male questa performance di Benny Sciaroni, che ci ha offerto una bella tensione, una bella velocità di esecuzione, con performance molto interessanti, con dei bei fraseggi, un bel dialogo con il chitarrista Mike Mele, veramente interessante. Benny Sciaroni al sax, Joe Barbato al pianoforte, Todd Baker al basso, Steve Langone alla batteria, e qui lo special guest era il chitarrista Mike Mele, che avete sentito in belle performance solistiche. Il CD è intitolato Slant Signature e noi ci siamo ascoltati proprio il pezzo, una composizione originale di Benny Sciaroni che porta il titolo del CD, Slant Signature. Dopo Benny Sciaroni è il momento di ascoltare un maestro della musica brasiliana, un jazzista di qualità, raffinato, che ho già avuto il piacere di promuovere più volte nel mio programma, Antonio Adolfo, musicista di gran classe, che ha realizzato un CD intitolato Rio Choro Jazz, A Tribute to Legendary Brazilian Pianist and Composer Ernesto Nazareth. Rio Choro Jazz è una sua composizione originale, cioè di Antonio Adolfo, ma è l'unica, proprio perché appunto il resto sono composizioni di Ernesto Nazareth oppure di altri che Antonio Adolfo interpreta, proprio omaggiando questo pianista che è morto negli anni 30. La formazione vede Antonio Adolfo al pianoforte, Claudio Spivak alle chitarre, Jorge Helder al contrabbasso, Marcelo Mertins al flauto e al sax soprano, Rafael Barata alla batteria e percussioni e Marcos Susano alle percussioni. Stasera vi farò ascoltare l'interpretazione di Fon Fon. Buon ascolto quindi con Antonio Adolfo e il suo ensemble. Thank you. Bene, questa era la musica che ci ha proposto Antonio Adolfo, un maestro brasiliano veramente molto bravo, un pianista di grande levatura, di grande eleganza e raffinatezza. In questo caso ci ha proposto Fon Fon, una composizione del pianista Ernesto Nazareth, che nacque nel 1883 e morì nel 1934, e dal quale Antonio Adolfo, con questo CD Rio Choro Jazz, intende fare un tributo. Il pezzo, appunto, scritto da Ernesto Nazareth, è stato rivissuto, reinterpretato con grande maestria, con dei bei fraseggi, con poesia, con eleganza, raffinatezza, non solo del leader del gruppo Antonio Adolfo, ma anche degli altri membri del gruppo, che sono veramente professionisti di alto valore. Li ricordo, insieme appunto al piano Antonio Adolfo, alla chitarra Claudio Spivak, al contrabbasso Jorge Elder, al flauto e sax soprano Marcello Martins, alla batteria e percussioni Rafael Barata e alle percussioni Marcos Suzano. Ricordo che il CD di Antonio Adolfo è intitolato Rio Choro Jazz. E dopo Antonio Adolfo vi presento un bel CD di Filippo Gallo and Between the Lines, featuring Marco Tamburini, ahimè scomparso proprio poco tempo fa, un caro amico, un grande trombettista, un musicista di cui sentiremo sicuramente la mancanza, sia come musicista che come uomo. September Waiting è un CD veramente molto interessante, nel quale Filippo Gallo ha inserito molte composizioni originali, una più interessante dell'altra. Il CD è veramente godibile, è stato pubblicato da Nota Mi, e stasera io vi voglio far ascoltare uno dei pezzi che mi ha colpito maggiormente. Si tratta della composizione, tra l'altro, che apre l'album, una composizione originale di Filippo Gallo, intitolata Snow. Buon ascolto. Veramente un bel pezzo questo Snow, questa composizione originale di Filippo Gallo realizzata insieme a The Between the Lines, questo gruppo formato da Filippo Gallo alla chitarra, lo scomparso e compianto Marco Tamburini alla tromba e poi Marco Postacchini al sax tenore, Gian Ludovico Carmenati al basso e Andrea Morandi alla batteria. Si tratta di una composizione originale, come avete sentita, ricca di tensioni, molto bella, con dei bei fraseggi, con dei begli assoli, ma non solo, anche con una complicità d'ensemble veramente molto interessante e coinvolgente. Mi sono sinceramente emozionato a sentire questa bella performance del caro Marco Tamburini, che in questo disco veramente si è espresso al massimo. Per fortuna rimangono queste tracce musicali di musicisti che veramente hanno lasciato un'impronta nel mondo della musica e sono contentissimo di poter promuovere questo disco di Filippo Gallo, prima di tutto per le bellissime composizioni di questo ottimo chitarrista, che l'avete sentito non solo in veste di compositore ma anche di chitarrista molto raffinato, e anche per l'opportunità di poter ricordare Marco Tamburini. September Waiting, pubblicato da Nota Me, Filippo Gallo and the Between the Lines featuring Marco Tamburini. E adesso andiamo avanti con una bella orchestra di Amburgo molto conosciuta, la NDR Big Band, in questo caso diretta da Michael Gibbs, che insieme appunto alla NDR Big Band ha realizzato questo CD Play a Bill Frisell Set List, molto interessante, pubblicato dalla Cuneiform, con delle interpretazioni veramente personali, interessanti, sicuramente godibili e pieni di valori dalla prima all'ultima traccia. Stasera vi voglio far ascoltare l'interpretazione di Bennis Bagle, Michael Gibbs and the NDR Big Band. Buon ascolto. Thank you. Bene, questo era un live veramente molto bello, ricco di tensioni, ricco di vivacità, gioioso, con una freschezza straordinaria per essere una big band, non a caso la NDR Big Band, in questo caso diretta da Michael Gibbs, viene considerata una delle più grandi big band del momento a livello internazionale, una band di Amburgo che veramente si è fatta stimare in tutto il mondo e che ha vinto premi importantissimi ai massimi livelli. Il CD è intitolato Michael Gibbs and the NDR Big Band Play a Big Frizzell Setlist. Noi ci siamo ascoltati questa fresca e pimpante Bennis Bagel, una bellissima interpretazione. Ricordo che il CD è stato pubblicato dalla Cuneiform. Adesso andiamo avanti con una bravissima cantante che ho avuto anche il piacere di vedere e di ascoltare dal vivo proprio qui in Toscana, a Pisa. Si tratta dell'inglese Juliet Kelly, che dal CD Spellbound Stories ci farà ascoltare una delle interpretazioni più interessanti di questo CD, Forbidden Fruit. Buon ascolto quindi con Juliet Kelly. Forbidden fruit tastes like no other. The forbidden fruit is undercover. Though you deny it, you long to try it. Do what you know you could. The forbidden fruit, it's all. To Bene, questa era la bella voce di Juliet Kelly, questa cantante inglese che, come dicevo prima, ho avuto il piacere di ascoltare e di vedere dal vivo, tra l'altro in una serata con una band italiana, quindi una serata improntata agli standards. Quando poi ho avuto il piacere di ascoltare questo suo disco Spellbound Stories, sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dalla sua ricerca, dalle interpretazioni originali e personali che mostrano una cantante che è capace anche di cercare una propria strada, una propria via interpretativa e con delle idee ben chiare anche sul piano musicale. Veramente gradevole, interessante, una cantante elegante, raffinata, che ha un bel garbo nel porre le frasi e nello stesso tempo una tecnica veramente professionale di grande livello. Juliet Kelly dal CD Spellbound Stories che ci ha fatto ascoltare Forbidden Fruit. E adesso, dopo Juliet Kelly, è il momento di Jerry Granelli. Jerry Granelli che si presenta per la prima volta nei nostri programmi, un italo-americano che ha realizzato un interessante progetto discografico intitolato What a Year Now. E da questo disco noi ci potremo ascoltare The Swamp. Buon ascolto quindi con Jerry Granelli. Questa era la musica del validissimo Jerry Granelli, un CD veramente molto interessante, questo What a Year Now, con delle ispirate composizioni originali, delle belle performance solistiche e con un'imprevedibilità straordinaria che riesce a coinvolgerci in ogni momento d'ascolto. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato The Swamp, una composizione originale che è tra le più interessanti e stimolanti di questo bel CD. Jerry Granelli con la sua ottima band. E adesso andiamo avanti con un gruppo italiano che tra l'altro attraverso il CD che vi faccio ascoltare stasera è stato selezionato anche per il Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Sto parlando dei Mezzotono, un gruppo che ho già avuto il piacere di promuovere anche proprio nel Festival delle Voci Jazz anni fa e che ritorna alla ribalta con un bel CD veramente molto interessante intitolato Mad in Italy. È molto simpatica questo gioco di parole, Mad in Italy. Il CD è stato pubblicato da Preludio e la formazione vede Fabio Lepore, Daniela Desideri, Gaia Gentile, Andrea Maurelli, Marco Giuliani. Alcuni di loro, in particolare Fabio Lepore, ha avuto il piacere anche di essere selezionato come leader cantante proprio nel Festival delle Voci Jazz Italiane, oltre che con la formazione dei Mezzotono. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è un'interpretazione molto originale, molto particolare di un successo della musica pop. Sentite l'interpretazione che vi offrono in Mezzotono di Maledetta Primavera. Buon ascolto. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. Era stato un sogno erotico se al mattino è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te, yeah, yeah, yeah. Fretta c'era, male. Bene, questi erano i Mezzotono, validissimo gruppo musicale che ci ha fatto ascoltare questa bella interpretazione di Maledetta Primavera. Un CD, questo Mad in Italy, veramente stimolante, interessante, con delle rivisitazioni di pezzi molto conosciuti, personalizzati veramente dagli arrangiamenti di questo ottimo gruppo che, come ho detto prima, ritornerà anche in queste trasmissioni con il Festival delle Voci Jazz Italiane. Infatti sono stati selezionati proprio con questo nuovo CD per il Dubidubidù 2015, l'undicesimo Festival Radiofonico delle Voci Jazz Italiane, che partirà ad ottobre. E prima di passare al prossimo pezzo ricordiamo anche la formazione del gruppo, appunto, dei Mezzotono. Abbiamo Fabio Lepore, Daniela Desideri, Gaia Gentile, Andrea Maurelli e Marco Giuliani. Ricordo ancora una volta che il CD è intitolato Mad in Italy, pubblicato da Preludio. Adesso, dopo i Mezzotono, andiamo avanti con una straordinaria cantante conosciuta in tutto il mondo, Dee Bridgewater, che torna a incidere con questo bellissimo Dee's Features, dal quale noi ci potremo ascoltare uno dei pezzi che mi ha impressionato maggiormente, Do You Know What It Means? Buon ascolto quindi con la grande Dee Bridgewater. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss covered vines, the tall to see the lazy Mississippi a hurrying into spring. The moonlight on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means? Something more, I miss the one I care for. More than I miss New Orleans. Thank you. Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to me? Something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Questa era la meravigliosa voce di Dee Bridgewater, una straordinaria interprete che nelle ultime registrazioni si era dedicata anche alla musica etnica e che è tornata pienamente al jazz con questo straordinario disco, veramente raffinato, con delle interpretazioni di altissimo livello. Molto bello anche l'accompagnamento musicale con questa band straordinaria di ottimi musicisti, di ottimi performer che vivono con grande complicità questo progetto discografico. Il CD è intitolato Dee's Features e noi ci siamo ascoltati l'interpretazione di Do You Know What It Means? E adesso l'ultimo disco della serata saranno The Pied Pipers with the Bill Toll Orchestra ad offrirci un bel pezzo dal CD Dream intitolato Day In, Day Out. Il solo di voce a cura di Nancy Knorr e il solo di trombone a cura di Scott Whitfield. Buon ascolto con The Pied Pipers with the Bill Toll Orchestra. That same old voodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake with a tingle, one possibility in view. That possibility's maybe seeing you. Come rain, shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? Then there it is, day in, day out. Ah! Bene, ci siamo ascoltati The Pied Pipers with the Bill Toll Orchestra dal CD Dream. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Day In Day Out, con la solo di voce di Nancy Knorr, la solo di trombone a cura di Scott Whitfield, la bravissima Bill Toll Orchestra che ricorda i fasti delle grandi big band degli anni 40. Hanno chiuso anche questa bella puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anime Jazz.